Allora, chi ha qualcosa da chiedere alla professoressa studiosa del Filippo Presbitero? Ecco. Dunque, qui il problema grosso è quello della conoscenza e utilizzazione della Vulgata da parte del discepolo di Girolamo, non soltanto per Giobbe, ma per tutta quanta la Vulgata. Ora tu mi pare di aver capito che un'indagine a tappeto in questo senso la stai facendo, l'hai già avviata. Sì, praticamente è molto facile ricostruirlo proprio dal testo, da questo testo di commento a Giobbe, perché altre opere di Filippo non abbiamo. E come credo di aver accennato, è singolare il fatto, ma non poi tanto singolare direi io, che la Nova Editio è solamente quella di Giobbe. L'unica altra cosa che cita è quest'altra edizione, Alia Editio dice, o ancora Nova Editio, che si riferisce ai Salmi. Ai Salmi Ius Ebreos. Per quanto riguarda le altre citazioni, il problema viene complicato dal fatto dell'utilizzazione della fonte greca di Filippo, poiché Filippo cita moltissimo a sostegno la Bibbia secondo l'uso prettamente alessandrino e anche geronimiano, e cita sempre, a quanto mi è possibile constatare, secondo la Vetus, secondo cioè una traduzione dal testo greco. Ora, in molti di questi casi il sospetto è che lui traduca la fonte direttamente, poiché la fonte greca è normale che lui citi secondo i 70. Altre citazioni sembrano anche qui riprendere il testo greco. Ci sono alcune cose che pongono degli interrogativi, perché ce ne sono e sono anche abbastanza singolari, ma naturalmente aspettano una collazione completa di tutti i manoscritti, perché è evidente che proprio in questo punto, cioè le citazioni dei lemmi biblici, è più facile la corruzione o anche la contaminazione. La normalizzazione dei copisti, quindi bisognerà Io mi vederlo. aspetterei in uno dei rari e pochi apprezzatori della Vulgata, perché Girolamo non fu subito apprezzato. Sì, ma se era un discepolo No, era. sì, mi aspetterei un apprezzamento della Vulgata, naturalmente per tutti i libri, non soltanto per Giobbe. Quindi mi sembra poi strano, mi sembrerebbe strano che seguisse la Vulgata di Giobbe e non degli altri libri. Già ieri ti accennavo No, a ma tavola. in che periodo l'ha scritto? Perché mi sorprende anche questo. Sì, ma io E adesso ho degli elementi, secondo. No, ma bisogna dire cronologicamente. cronologici qui, non li ho appuntati. Per esempio, la Vulgata dei libri salomonici è del 398, quindi è chiaro che egli non può citare l'Ecclesiaste secondo la Vulgata nel 393, quindi non mi aspetto che citi la Vulgata dell'Ecclesiaste nel commento a Giobbe, però c'è già la traduzione che Girolamo ha fatto. Come per il Salterio, dall'ebraico nel commentario, e il commentario è del 389. Ora, come mai cita l'Ecclesiaste, come ti dicevo ieri, secondo la Vetus, quando aveva già a disposizione la nuova traduzione dall'ebraico di Girolamo? Se era così attaccato al maestro, avrebbe dovuto citare la nuova, tanto più che erano lì a Betlemme tutte e due, lì vicino. Ecco, mi pare strano che citi Spartum triplex e non Funiculus triplex, che sarà poi nella Vulgata, ma è già nel commentario di Girolamo, che io in un famoso, no, scusa, in un modesto articolo, Non in un fa per niente. modesto articolo, Le tre versioni geronimiane dell'Ecclesiaste, che tu avrai Sì, letto. sì, sì, sì. Se è famoso, per forza l'ha Sì, letto. mi sembra Però credo di d'obbligo. aver dimostrato che il commentario all'Ecclesiaste anticipa la Vulgata, ricordi Sì. questa argomentazione? C'è molte scelte interpretative che sono già nell'esegesi del commentario, poi passano nella Vulgata. Una di queste è questo Funiculus triplex che c'è sia nella traduzione del versetto in testa sia poi nella spiegazione. E questo prete qui, questo Filippo, conosceva il commentario, insomma, non l'ha seguito. Cioè non seguiva sempre il maestro, allora, nella nuova tradizione. Questo esempio sembrerebbe contraddire. Questo è... In realtà a me personalmente non meraviglia molto una volta che uno abbia fatto la conoscenza con questo tizio, in quanto proprio con questo tizio, perché noi che ne sappiamo? Sappiamo soltanto che presenta la Novedizio, cioè la Vulgata di Giobbe, sembrerebbe su indicazione di Gerolamo stesso, che sarebbe stato il suo maestro. Ora, mi sembra anche evidente che fosse un suo discepolo alle prime armi, cioè veramente uno che non avesse poi questa grande familiarità ancora con la scuola esegetica geronimiana, e soprattutto il fatto che lui si limiti in questo commentario a dare una parafrasi molto attenta e scrupolosa per quanto riguarda la Novedizio, mentre tutto il resto dell'operazione di commento a due livelli, quindi la sovrapposizione dell'allegoria alla lettera, spesso il ricorso a tutta la strumentazione dell'interpretazione spirituale del libro di Giobbe, è fatto invece secondo il testo dei 70, cioè gli antichi traslatores, ed evidentemente in questo lui è supportato fortemente da questa fonte greca che seguirebbe in maniera, diciamo, rigorosa per tutto quello che aveva a disposizione, e ricorrendo anche a ciò che c'era di interpretazione della Bibbia fino a quel momento. Naturalmente fino ad allora lui non poteva avere a disposizione altro che testi che seguissero i 70, e non certo questa nuova edizione, cioè questa nuova traduzione, che avrebbe presupposto tutto un lavoro di prima mano di nuovo di commento, perché quella di Gerolamo, perché la Vulgata, quella che noi dopo chiamiamo Vulgata, perché il suo intento è quello di dare le citazioni di sostegno, non di illustrare o di propagandare quest'altro testo. Questo si limita a farlo per Giobbe. Dunque, a che pro diremmo citare, spostarsi continuamente, andare a controllare e citare poi il testo greco che lui aveva sotto mano, secondo invece Gerolamo? Era un'operazione che presupponeva tutto un altro scopo anche, che fosse quello di sostegno e propaganda della nuova traduzione. Ora non sembra che Filippo l'abbia inteso fare, ecco. Tutto qui. Poi è chiaro che ancora si apre la prospettiva. Tutto sì, tutto sì. Ci sono altre domande su questa relazione? Allora, sì. No, solo in particolare, a proposito della traduzione, ti ricordi, hai detto perituri oppure... Sì, sì. Però quello che non ho capito bene è se queste due lezioni, come a un certo punto si trovano tutte insieme, dice pueri, sì. Perituri... No, lui... Non allora... ho capito con precisione. Il problema è questo, che la Vulgata, cioè la traduzione di Gerolamo, ha perituri, i codici della tradizione diretta hanno perituri, Filippo ha pueri invece di perituri. Ora Filippo conosce anche l'altra, come dice, l'alia editio, cioè praticamente quella ricalcata sul greco, che ha perditi e non perituri, per cui dice pueri sive perditi, cioè li mette in contrapposizione, allora pueri è sostitutivo di questo perituri. Il problema è, Filippo leggeva un esemplare corrotto che a questo punto dava pueri e non perituri, e lui non se n'è accorto, non ha chiamato in aiuto Gerolamo, se l'è bevuta, in altre parole, perché fonda tutta la sua interpretazione su puer dato come analogo anche poi o in simmetria con vidua, con pupillus, eccetera. E quindi non se ne sarebbe accorto. Oppure veramente a questo punto era lezione di Gerolamo, come in altri casi, puer, e poi in un secondo momento evidentemente anche corretto o sostituito con perituri, ma cioè la vera e propria variante d'autore. Ma quello che io ti domando, perché non ho capito bene, pueri o perituri si trovano effettivamente in tutti i manoscritti, cioè è possibile, di Filippo. È possibile che magari gli stessi manoscritti abbiano pueri oppure vel perituri o viceversa, nel senso che se il manoscritto può avere raccolto le due lezioni e che queste non siano magari varianti d'autore ma tradizioni differenti poi confluite in un manoscritto. Allora, ecco, questo te lo chiedo se cioè, hai già fatto l'esame. Allora, l'archetipo sì, certo, ma io forse non ho dato l'idea della distinzione fra la tradizione diretta della Vulgata, che è una cosa, sì, e poi invece la tradizione manoscritta di Filippo, che è un'altra. La tradizione manoscritta di Filippo indica inequivocabilmente che il suo esemplare, l'archetipo, quello che Filippo leggeva, aveva Pueri. E non aveva, e la correzione perituri è in un caso, perché quasi sempre unanime, in un unico caso che c'è l'oscillazione è una normalizzazione posteriore della cinquecentina. Ecco. Quindi è inequivocabile che Filippo leggeva Pueri, che il suo esemplare dava Pueri, e se a questo punto l'esemplare era corrotto, però era un esemplare talmente vicino proprio a Girolamo e quasi contemporaneo, poi Filippo non se n'è accorto, Girolamo non l'ha corretto, insomma mi sembra molto dura, insomma, accettare questa cosa, anche perché poi è un unicum, non è che prende altri abbagli. E siccome ci sono anche altri casi in cui il testo e il lemma biblico commentato da Filippo diverge, anche se non sostanzialmente, da quello che noi abbiamo della tradizione diretta della Vulgata, io mi chiedo se questo non debba risalire per forza a Girolamo. Sì, Girolamo, sì. Posso chiedere una cosa? Per soddisfare una mia curiosità, io gli ho detto che mi ero imbattuto così in questo scrittore, ritenendolo fonte di Giuliano De Clano. L'unica coincidenza che trovavo così in maniera evidente era che anche in Giuliano De Clano, in maniera molto chiara, è detta che segue la nuova edizio e ha dei riscontri, effettivamente è così, nel commento per esempio a Giobbe, eh sì, dà il testo della nuova edizio e poi subito dopo dà il testo latino diverso, addirittura dice et in greco e si riferisce ai 70 e ho anche visto al codice alessandrino dei 70, insomma. Fatto questo, ora volevo sapere se l'hai fatto, se hai intenzione di farlo, se hai potuto appurare che esistono dei rapporti tra questi due personaggi oppure no, oppure così una mia ipotesi che poi non, alla quale peraltro non ho dedicato tempo, quindi se tu l'hai fatto o altrimenti mi puoi anche rispondere un'altra volta. No, ma intanto volta, come curiosità di fondo è il fatto che la contaminazione fra Filippo e Giuliano è esistita fin dall'inizio, perché guarda caso esiste un manoscritto che dall'incipit è attribuito, insomma attribuisce l'opera, il commento a Giobbe a Filippo, su cui si era fondato Vaccari, sì, e noi ne parlavamo sì, l'altra sì, sera, ma non è di Filippo, è di Giuliano. Sì. E quindi no, proprio quello, da lì il Giuliano, quello che noi oramai sappiamo, questa tanto, è un'altra parte. Cioè, questa è un'altra cosa. Noi dicevo, se tra questi, diciamo, lasciamo stare gli autori, se tra questi due testi il testo attribuito è pari in maniera definitiva a Giuliano, e questo testo che tu attribuisci, di cui tu fai l'edizione critica, a presbitero Filippo, se c'è rapporto tra questi due testi oppure no, e se ci sono, che tipi di rapporto? Se non l'hai fatta la ricerca, non è che poi no, è magari poi ne parliamo un'altra volta, perché per me è solo un'ipotesi, io non ci ho mai dedicato tempo. Non mi è chiaro il problema. Tu hai parlato adesso e anche ieri un commento a Giobbe che il Vaccari avrebbe erroneamente attribuito a Giuliano, mentre No, tutto il contrario. No, esiste un manoscritto, uno solo comunque, che attribuisce, che ha l'incipit di attribuzione a Filippo. E quindi Vaccari lo aveva preso per Filippo, e invece non è di Filippo, è Giuliano, è Giuliano di Clano, e quindi il commento a Giobbe è di Giuliano. Esattamente. Sì, appunto. Sì. Perciò ho detto, parliamo dei testi, altrimenti ci confondiamo. In ogni caso è un'opera enigmatica. Il problema è questo, che poi al di là del fatto che questo Filippo parafrasa e spiega e illustra la Vulgata, il grosso del suo commento invece segue il vecchio testo dei 70, perché è interessato all'interpretazione allegorica, e tutto questo gli deriva dalla tradizione precedente. Ora questo manca in Giuliano di Clano, e quindi questa cosa li differenzia in maniera... L'unico punto in comune è questa spiegazione della Vulgata, mi sembra troppo poco per inferirne un contatto. Ti chiedevo, non è che io non ho nessuna idea. Sono allora, due testi molto diversi. Sulla seconda relazione è così ricca di provocazioni, così scintillante. E ti pareva, forza. Anche qui hai scritto un famoso articolo, vieni su. Così anche la Vallensis ha sottolineato un po' di fatica su problemi. Ebbe percezione o consapevolezza che nella Vulgata del Nuovo Testamento ci sono più mani, o attribuiva tutto il lavoro di revisione della Vetus Latina a Girolamo? Perché la critica moderna dice che solo i Vangeli sono opera di Girolamo, certo, nelle epistole e negli atti. Ma il Valla in proposito come, perché non è stato detto in maniera chiara. No, anche perché il suo commento è soprattutto un commento al Nuovo Testamento. Sì. Però all'interno di questi, della collazio e delle adnotazioni tornano eventualmente, no, alcune citazioni legate agli altri, però lui non si esprime, e quindi diciamo, la sua attenzione è rivolta soprattutto al testo del Nuovo Testamento. Sì, però in mi pare in un passo che non era il Vangelo, ma era l'Apostolo o altro, e mi pare, se non ricordo male, che il Valla diceva qui, oggi Girolamo interprete, ma forse Geronimo, ha capito male, o non è Girolamo l'interprete? No, no, infatti, perché l'interprete... Questo Vangelo era un altro libro del Nuovo Testamento, quindi sembrerebbe che attribuisse tutto il lavoro di revisione. Sì, anche perché lui non fa soltanto il Vangelo, questo è la Donatazione al Nuovo Testamento, sì, comprende praticamente tutto. Sì, questo lo so bene, ma dico, mi pare che per qualche libro neotestamentario diverso dai Vangeli, egli faccia il nome di Girolamo, quindi se ne deduce perlomeno che attribuiva a Girolamo lui ha... tutta la revisione. Lui dice, certo, c'è la revisione, ma là dove nota delle incongruenze, diciamo, col testo greco, o nota delle incongruenze all'interno della stessa traduzione latina, non l'attribuisce a Girolamo. Io ho letto il passo in cui si diceva, potrebbe essere l'opinione che questo sia Girolamo. Per me non lo è l'interprete. O se è Girolamo è perché c'è stata una corruzione nei testi che sono nella tradizione, nei testi che sono arrivati a noi. Perché? Perché Girolamo, ecco, allora, in alcuni passi non fa il confronto, in quelli in cui gli è possibile fa dei confronti con i testi sicuramente geronimiani, gli altri, ecco, e rinvia a questi, dimostrando che lì lui aveva dato una traduzione diversa rispetto a quella che lui trova invece per quanto riguarda il passo evangelico. No, ecco, io non ho poi fatto la schedatura, cioè di tutte le adnotazioni Sate Novum Testamentum, per cui a questo punto non ci sono elementi per poter, potrebbe emergere. No, forse per quei tempi era prematuro avanzare un'ipotesi del genere. Può anche probabilmente, essere, essendo figlio del suo tempo, avrà creduto. Perché poi devo dire anche questo, cioè le adnotazioni, se si leggono nell'edizione della Cinquecentina, 1540, degli Opera Omnia del Valla, io ho controllato per alcuni passi l'unico manoscritto che si è conservato, che è uno a Bruxelles. Ci sono dei cambiamenti, certo, anche lì. Quindi noi abbiamo quello che c'è nella collazio, prima redazione. Tantissime di queste cose non sono finite nelle adnotaciones, seconda redazione. Per le adnotaciones abbiamo divergenze tra la stampa cinquecentesca degli Opera Omnia del Valla e questo unico codice. Infatti si sta aspettando questa edizione di Perosa, perché in questo modo sarà più facile effettivamente anche verificare e soprattutto fare uno spoglio più attento e completo. Io non ho fatto la schedatura di tutti i passi delle annotazioni, ecco, poi questo una curiosità vedo, un punto particolare per Luca 2:15, il termine eudochia, là dove dice doxa in upsisto istitoteo, Caio Epichesse, Irene, Antropo, Estetesse, Eudochias. Sì, Era il problema della conquista dell'esegesi moderna, intendere Eudochia non come buona voluntas, ma come beneplacito di Dio. Cioè, non è pace in terra agli uomini di buona volontà, ormai nessuno più traduce così, ma pace in terra agli uomini del suo beneplacito. Valla questo non è arrivato. No, continua, perché lui aveva... Continua a intendere buona voluntas. Sì, perché... Ma insomma, il greco però l'avrebbe potuto mettere... Lui trovava praticamente il greco al nominativo anziché al genitivo, è per quello che ha modificato le sì, due però cose. Anche in quel caso, come Eudochia è il beneplacito di Dio. Insomma, ma Valla... Cioè, che c'è un altro discorso di quanto il Valla conosca il greco. Nei quali Dio si è compiaciuto, non è mai la buona volontà dell'uomo. Lo so, però c'è il problema di quanto il Valla... Anche il Valla. Lo si può prendere in castagna per il greco. Questo vale per le nostre dottorande, le quali ora crederanno a quello che dicevo io, che conosce a memoria la scrittura. Sull'Eudochia. No, è data la prova rapida. È tutto il discorso della sua conoscenza del greco che quindi va affrontato. Ci sono altre domande? Dicessi di nuovo sta cosa qua, perché ero purtroppo fuori per ragioni di ufficio, la storia dell'Eudochia è un... Cioè lui dice per quanto riguarda le nuove edizioni. Sì, scusami, ero fuori quando, scusa, com'era la questione dell'Eudochia e Eudochias? Cioè Eudochias è il testo di Luca. Cioè che lui traduce voluntas. Test non c'è. Non importa, il test non c'è. No, il test non c'è, c'è solo Eudochias. Lui ha Eudochia. È grave. Dopo c'è. No, lui non ce l'ha questo. No. Dopo c'è tu come glossa. Guarda, lo so a memoria sto qua, perché c'ho... Però tu sai a memoria solo questo passo, lui sa tutto a memoria. No, questo è... Comunque il test non c'è. Il test no. E lui ha il nominativo anziché il genitivo, tra l'altro, e quindi fa la punteggiatura. La glossa che ti spiega, che ti spiega il nominativo. Cioè, autù non c'è, il codice dove c'è il genitivo. È il problema col quale, sai, ho discusso a lungo con il Rivoen, che l'ha studiato a fondo il problema. Anche perché c'ho scritto sopra, se prendi la traduzione dei testi religiosi, c'è proprio sì, questo problema. Il problema di fondo è questo, che i traduttori latini avevano un testo col genitivo e quindi hanno fatto buone voluntatis. Capisci? Invece nella tradizione greca c'è il testo sia col nominativo che col genitivo. La Chiesa greca usa il nominativo. La Chiesa greca, il testo liturgico. Non si può nei testi di salvo. Su quello nulla da dire. Dunque nella Bibbia di Gerusalemme, che è l'archetipo delle traduzioni moderne in questo caso, no? C'è della sua benevolenza. E questo non mi ricordo più cosa ci sia preso della sua benevolenza, comunque c'è scritto. E traducono con la, cioè con la col sua, no? Che, cioè non con la glossa. Tu non puoi tradurre senza mettere un possessivo nella lingua moderna. No, scusate la entrata, ma era il test che mi ha sì. Sono entrato dalla porta e mi ha turbato il test, ecco, perché... Va bene. Allora ci fermiamo qui e tra 10 minuti.